La ilaha illallahu rabbus samawati sab'a wa rabbul arshil azim. Non c'è divinità tranne Allah, Signore dei sette cieli e Signore del trono sublime.